GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Super bonus edilizia, all'allarme del settore dopo i tagli alle agevolazioni fiscali, aziende e posti a rischio. Segni di ripresa per il ragazzo ustionato a Taipana, è uscito dal coma farmacologico. Monfalcone e altri fondi per i dragaggi del porto, in primavera il via ai lavori, in attesa anche il diportismo. L'attenzione del governo per Gorizia, città della cultura, il logo a tutte le fiere dell'Italia, assicura il ministro San Giuliano. Carnevale carsico, successi per Opicina e Bagnoli, oggi la grande sfilata di Muggia. Sport, biathlon, Lisa Vittozzi e la staffetta azzurra conquistano l'oro ai mondiali, vittoria storica. Calcio, Udinese battuta 3-1 al Meazza dall'Inter, in C2, 2-0 del Pordenone a Trento, pari della Triestina a Padova. 19 febbraio, buona domenica da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Subito uno sguardo al tempo: abbiamo cielo da nuvoloso a coperto su pianura e costa, nuvolosità variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 7, a Trieste 8 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 7 gradi, nell'area montana a Tolmezzo e a Tarvisio 4, a Sappada meno 1, sul Piancavallo 0, a Forni di Sopra 1 grado e mezzo, e ancora in quota abbiamo 3 gradi sullo Zoncolan, su Lussari 5 gradi. Sulla costa grado 8, a Lignano 8 e mezzo. E queste invece le previsioni: cielo in genere coperto su pianura e costa con possibili piovigini o deboli piogge, specie a est, e foschie anche dense. Sulla zona montana cielo nuvoloso con più sole verso il Tarvisiano. Le nuove regole sul super bonus con lo stop alle agevolazioni fiscali rischiano di mettere in ginocchio l'edilizia. Sono tante le voci che sollecitano un ripensamento del governo, mentre uno studio mette in evidenza la portata degli interventi fin qui in regione. 1,5 miliardi di euro per ristrutturare appena il 3,3% degli immobili abitativi della nostra regione. Tanto è costato il superbonus edilizio, la misura varata nel maggio 2020 e di fatto mandata in soffitta 2 giorni fa dal governo, che ha interrotto i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura. A dirlo sono i numeri dell'ufficio studi della CGA di Mestre, ma la misura non va bocciata in toto, avvertono i sindacati. In ballo ci sono almeno 6.000 posti di lavoro del comparto edile ed è a rischio la tenuta sociale del tessuto produttivo, si legge in una nota congiunta delle sigle di settore Feneal, UIL, Filca, CISL, Fillea, CGL. Occorre trovare una soluzione per le tante famiglie e imprese che sono in possesso di una massa di crediti fiscali a questo punto non più esigibili, dice l'Unione Regionale dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca nera è rimasto ferito alla mano usando una smerigliatrice, un 56enne di Gemona, all'opera sul tetto di un'abitazione. È accaduto ieri in tarda mattinata. È stato ricoverato a Udine, le sue condizioni sono gravi. Ci sono invece buoni segnali di ripresa per il 13enne che è rimasto gravemente ustionato qualche giorno fa a Monte Aperta nel comune di Taipana. Lo ha fatto sapere il sindaco Alan Cecutti, che si è tenuto in contatto con i genitori. Il ragazzo, spiega, è stato risvegliato, parla ed è stato spostato in chirurgia plastica, grandi ustionati. Lo sviluppo portuale a Monfalcone al centro di un incontro ieri in municipio. Per Porto Rosega arrivano nuovi fondi per i dragaggi. Ora la dotazione è di 19 milioni. L'obiettivo sono i 12 metri e mezzo di profondità sul canale di accesso e agli ormeggi. A fine marzo è previsto l'inizio dei rilievi batimetrici, poi i carotaggi per la caratterizzazione dei sedimenti. Punto chiave del percorso è la cassa di colmata in cui depositare i fanghi. Il sito adiacente all'area portuale è già individuato, manca però l'autorizzazione finale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che potrebbe arrivare entro l'estate. Il secondo capitolo dei dragaggi monfalconesi riguarda i canali Est-Ovest e Lokovac dedicati alla nautica. Lo sbocco verso Duino è sempre un punto critico a causa dei detriti che giungono dalla foce del Timavo. L'obiettivo è uniformare il fondale a 3 metri di profondità. Il presidente del Consorzio per lo Sviluppo Economico della Venezia Giulia, Fabrizio Renato Russo. Tra il canale Stoves e il canale Lokovac abbiamo 2.500 posti barca, 25 aziende operante e 600 posti di lavoro. Con i fondi stanziati dalla Regione possiamo garantire per il prossimo triennio la percorribilità dei canali e quindi la possibilità alle aziende di lavorare e di svilupparsi. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. L'immagine di Go 2025, il logo della città europea della cultura, sarà pubblicizzato in ogni appuntamento fieristico, sia turistico sia culturale, al quale sarà presente l'Italia. Lo ha assicurato il ministro della cultura San Giuliano, incontrando a Roma esponenti della regione e del comune di Gorizia. San Giuliano, che sarà presto in città, garantisce che saranno studiate possibili linee di finanziamento a sostegno dell'iniziativa messa in atto dal comune di Gorizia. È stata inaugurata ieri a Udine, a Casa Cavazzini, la mostra Insieme, uno dei grandi eventi culturali di quest'anno. Le 55 opere, provenienti da una trentina di collezioni europee, saranno esposte fino a metà luglio. Salvador Dalì, di spalle, mentre ritrae la moglie, si riflette negli specchi, accoglie il visitatore della mostra, lasciando intendere la complessità del nostro stare insieme. Una ricerca continua della condizione umana che il curatore Don Alessio Geretti, che di Legio ha fatto uno dei luoghi delle grandi mostre, ha declinato attraverso 55 opere selezionate, partendo dai preraffaeliti per arrivare all'astrattismo. Dipinti provenienti da una trentina di collezioni europee, in cui il grande pubblico riconosce tra gli altri Kandinsky, Guttuso, Pistoletto, Mirko Basaldella e Cernus. Ma alla mostra, che rimarrà aperta fino al 16 luglio, sono esposti anche autori che provengono da musei distanti dal nostro perimetro. E questo è anche il bello di una mostra, non ripetere lo scontato e non parlare solamente agli addetti al settore, ma emozionare e dar da pensare a tutti, anche a chi non immaginava che nell'arte si possa entrare trovando le password giuste. In questa mostra ci sono. Udine, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le storie del Museo della Grande Guerra raccontate. Si intitola Anche le statue parlano, il progetto del Museo della Grande Guerra di Gorizia, uno spettacolo in musica e parole con le voci degli attori Alessandro Maione e Caterina Bernardi e del cantautore Edoardo De Angelis. I brani si intrecceranno con le spiegazioni del conservatore del museo Alessandra Martina. Le visite alle 11, alle 15.30 e alle 17 è necessario prenotare. Domenica di Carnevale e a Muggia è il giorno del Corso Mascherato, edizione numero 69, con i carri delle 8 compagnie, le bande musicali e 2000 maschere che sfileranno a partire dalle 13. Centro di Muggia naturalmente chiuso al traffico, saranno intensificate le corse della linea 20 e ci sarà un servizio di navette tra i parcheggi lungo via delle Saline, zona Pastificio Barilla e i luoghi del Carnevale Muggesano. Ieri intanto i carri hanno sfilato a Opicina per il Carnevale Carsico, 11 gruppi in gara più 2 fuori concorso. Le vittorie sono andate ai padroni di casa di Opicina per il carro ispirato alla crisi climatica e tra i gruppi a quello di Bagnoli con i suoi Trolls. E a Trieste nel pomeriggio alle 15.30 c'è il corso mascherato nel rione di Servola, un'altra sfilata dalla grande tradizione. Ad accompagnarla ci sarà la banda Refolo. A Udine il carnevale in via Mercatovecchio o in via Matteotti con iniziative dalle 10 alle 18 fra Trucca Bimbi, spettacoli di magia, ludobus e clown. All'insegna del carnevale anche la domenica all'immaginario scientifico di Trieste e Pordenone con allegri esperimenti e momenti speciali di animazione. Non è necessaria la prenotazione. E a Pasiano di Pordenone, carnevale al Teatro Gozzi con le animazioni di Orto Teatro e lo spettacolo A Pesca di Emozioni alle 17. Inizia alle 9.30 la 50ª edizione del tradizionale motoraduno in cima al Monte Bernadia sopra Tarcento, organizzato dall'AMF, l'Associazione Motociclistica Friulana. Una manifestazione nata sotto la neve, neve che però non c'è più a causa dei cambiamenti del clima. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'AMF, Maurizio Chittaro. Il clima è cambiato parecchio perché mentre nei primi anni la presenza della neve era una costante, ultimamente la neve si vede sempre meno e da qualche anno veramente quasi non c'è quasi mai. Siamo a una quota di 900 metri e purtroppo è cambiato il clima. Quanti sono i motociclisti che vi aspettate che vengano in questa edizione? Diciamo che normalmente in condizioni meteorologiche favorevoli siamo tra le 2.500 e le 3.000 presenze. E come sono le previsioni per oggi? Sarà una giornata nuvolosa con qualche magari piccola precipitazione, ma aspettiamo lo stesso un gran numero di partecipanti, come è da tradizione. E qual è il programma della giornata? Il programma è abbastanza semplice perché abbiamo istituito un senso unico salendo da Tarcento Sedilis, si sale sul Monte Bernadia, lì si troveranno un genere di conforto, si potrà ammirare il panorama, salutare gli amici e poi c'è la discesa verso Villanova delle Grotte e questo percorso è già un percorso turistico interessante. Siamo alla pagina dello sport. In primo piano c'è la vittoria mondiale delle azzurre del biathlon a Oberhof in Germania davanti alle padrone di casa. Oro per la staffetta femminile con la sappadina Lisa Vittozzi che vince a braccia alzate. Per lei la quarta medaglia iridata in questa edizione. Oggi pomeriggio cerca la quinta nella mass start. È stata l'apoteosi delle quattro ragazze d'oro del biathlon italiano con Lisa Vittozzi, campionessa di sangue freddo, bravissima a non farsi condizionare dalla posta in palio nel duello finale con la formidabile tedesca Herrmann. Il primo oro mondiale dell'Italia in staffetta sembra una magia al cospetto di formazioni attrezzatissime. Le italiane hanno vinto perché hanno sparato meglio di tutte, due soli errori ai quali è stato posto immediatamente rimedio con le ricariche su 40 colpi. Samuela Comola è quarta dopo la prima frazione, ma a soli 5 secondi dalla vetta, poi le azzurre mettono la freccia grazie all'altra fuoriclasse del gruppo, Dorothea Wierer, che dopo il poligono in piedi sorpassa la concorrenza. Bravissima la debuttante in un mondiale assoluto, Anna Augenthaler, capace di mantenere il comando della gara nonostante la pressione. E poi il testa a testa, Vittozzi Herrmann, deciso all'ultimo poligono, la sappadina veloce e precisa, la tedesca commette due errori e perde quei 30 secondi che non recupererà più. Trionfo di Vittozzi davanti al pubblico tedesco di Oberhof e gioia incontenibile per tutti dopo l'arrivo a braccia alzate della portacolori dei carabinieri. E gioiscono anche il tecnico della Vittozzi, il fornese Mirko Romanin, e l'altro carnico del gruppo, Giorgio Di Centa, skiman del biathlon italiano. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. E sentiamo la voce di Lisa Vittozzi che racconta gli ultimi momenti di questa gara entusiasmante giocata nel confronto con la tedesca Herrmann. Sapevo che forse nel poligono in piedi avevo qualcosa in più di lei e sicuramente lei aveva qualcosa in più di me l'ultimo giro in pista, quindi ho cercato di giocare le mie carte e l'ho fatto nel modo giusto. Sicuramente volevo prendermi questa vittoria e portare l'Italia sul gradino più alto, quindi abbiamo chiuso una gara partita bene e finita al top. Anche dallo sci alpino ieri è arrivato un acuto, quello di Lara Della Mea, che ai mondiali di Meribel ha conquistato l'ottavo posto nello slalom dopo una entusiasmante rimonta nella seconda manche. Per la tarvisiana il miglior risultato in carriera, arriva proprio all'appuntamento iridato. Sono contentissima, sono veramente emozionata, è veramente un sogno per me vivere questa esperienza. Si parte da qua sicuro e passo dopo passo sicuramente riuscirò a migliorarmi anche in Coppa del Mondo e comunque io sono contenta di come sto sciando, di come sono sugli sci e anche dall'atteggiamento che ho avuto oggi. Calcio Udinese, nulla da fare contro l'Inter. Al Meazza finisce 3-1 per i nerazzurri. Al vantaggio di Lukaku su rigore risponde Lovric nel primo tempo, nella ripresa i gol decisivi dei padroni di casa. Troppo forte l'Inter per un Udinese che non ha demeritato, senza riuscire però a concretizzare alcune buone occasioni create soprattutto nella ripresa, caratterizzata da diversi capovolgimenti di fronte. Nerazzurri contratti per buona parte del primo tempo, decisamente poco spettacolare, era ravvivato da un intervento del VAR che assegna un rigore per i padroni di casa, valutando scorretto un intervento piuttosto deciso di Wallace su Dumfries in area. Dal dischetto si presenta Lukaku, ma il suo tiro è parato da Silvestri, che però si muove leggermente in anticipo. Tutto da rifare e stavolta l'attaccante belga non sbaglia per il vantaggio della squadra di Inzaghi. I ritmi calano, i bianconeri ne approfittano per pareggiare prima dell'intervallo con un bel destro secco di Lovric, ben servito da Pereira. Nella seconda frazione gli spazi si allargano e la gara si infiamma. L'Inter spinge e crea alcune buone occasioni senza però sfruttarle. L'Udinese cerca di resistere ma al 73esimo deve capitolare. È Mkhitaryan che firma il nuovo vantaggio superando Silvestri con un tiro angolato. La partita rimane aperta, ma a chiuderla ci pensa Lautaro Martinez, che dopo aver fallito una buona occasione solo davanti al portiere, all'89esimo lo supera per il definitivo 3-1. In pieno recupero il rasoterra di Success, finito fuori, anticipa di poco il fischio finale. Friulani che rimangono a quota 30 in classifica. Giorgio Bearz, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C un successo, un pareggio per le regionali, il Pordenone torna alla vittoria con un 2-0 sul campo del Trento, i gol di Candellone e Dubizkas in una partita per larghi tratti dominata valgono la conferma al terzo posto in classifica. Davanti Feralpi Salò e Prosesto, anch'esse vittoriose in trasferta, mantengono due punti di vantaggio. Rammarico per la Triestina che va in vantaggio a Padova con una rete di Masi e viene raggiunta due minuti dal termine dopo aver mancato il raddoppio. Alla sbardati ultimi, la zona salvezza è a 11 punti. Nel prossimo turno big match Feralpi-Pordenone, Triestina in casa con la Juve Next Gen. Doppietta Triestina nei 60 ostacoli agli assoluti indoor di Ancona. Nicola Musetti ha battuto la photo finish, Elisa Di Lazzaro rimontata sul filo di lana. Il crono di 8 secondi e 4 centesimi è per entrambe il primato personale. Nel 1500 metri ha conquistato l'argento Sintayeo Vissa della Friulintagli Bruniera, battuta allo sprint da Ludovica Cavalli dell'Aeronautica Militare. Nella pallanuoto doppietta per Trieste nei rispettivi massimi campionati, in quello maschile gli Albardati vincono contro Anzio 16-11 in casa, la squadra di Bettini è sesta in classifica. Nel torneo femminile le Orchette piegano di misura il Bogliasco 5-4, è la prima vittoria in trasferta in questa stagione. Pallamano in A2, ampio successo per Trieste sul campo dell'Oriago, 35-19 per i biancorossi che ora hanno nel mirino la capolista Appiano, prossima avversaria. Basket in A2 maschile in campo nel pomeriggio le friulane, l'Apu Oldo Al West ospiterà il Carnera e il pericolante Ravenna, trasferta a Ferrara per la Gesteco Cividale, entrambe le gare alle 17. In A2 femminile ieri la Delser Udine è stata battuta sul campo del Carugate 66-63, mentre una preziosa vittoria è stata conquistata dal Futurosa Trieste 66-61 a Bolzano. Nella pallavolo A2 femminile la CDA Talmassons ospita alle 15:30 la Desi Messina. La CDA è reduce da una sconfitta che ha interrotto una lunga serie positiva. In trasferta l'ITAS Ceccarelli Martignacco, che giocherà sul campo romagnolo dell'OMAG. E siamo alla rassegna stampa, in apertura del Gazzettino, edizione di Udine, la politica con l'incontro tra il sindaco Fontanini e il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini in programma venerdì prossimo a Roma. Obiettivo: recuperare 50 milioni per la dismissione dei passaggi a livello. Fotonotizia per la sconfitta dell'Udinese contro l'Inter e si parla anche dell'orafo che tre malviventi hanno seguito fino in Veneto per rapinarlo e poi sono stati arrestati. E poi il bando dell'ASUFC per medici extracomunitari, ma che dovranno sapere l'italiano, chiede la Lega. Per lo sport, l'ottavo posto di Lara Della Mea ai mondiali di sci a Méribel. L'edizione di Pordenone titola Gli occhi della Cina su Electrolux con il colosso Midea che avrebbe nel mirino l'azienda svedese. Fotonotizia per lo sport dedicata alla vittoria del Pordenone a Trento. Il calo dei dipendenti pubblici in regione, meno 7% in 10 anni, mentre l'ASFO cerca un manager per insegnare ai sanitari come difendersi dalle aggressioni. Siamo al piccolo che ha in evidenza l'allarme del mondo dell'edilizia sul superbonus, ma apre l'edizione di Trieste con il caro energia e con il piano ATER, bolletta a rate negli alloggi popolari. Nella cronaca cittadina anche il dibattito sulla cabinovia, la variante tornerà nell'aula del Consiglio Comunale senza passare di nuovo nelle commissioni. Sull'edizione di Gorizia l'impegno del Ministro della Cultura per Go 2025, il titolo principale, da Monfalcone invece il tavolo sull'escavo portuale. L'integrazione dei fondi vale circa 6 milioni, il via dei lavori probabilmente in aprile, scrive il piccolo. I limiti del superbonus sono l'apertura del Messaggero Veneto nelle edizioni sia di Udine che di Pordenone. La misura, secondo la CGA di Mestre, ha avuto un costo spaventoso, mentre è stato riqualificato solo il 3,3% degli immobili. Al centro le fotonotizie dello sport, il crollo dell'Udinese, sconfitta appunto dall'Inter, e l'oro mondiale nella staffetta di biathlon con Lisa Vittozzi. Nell'edizione di Udine la città si prepara all'adunata degli alpini, attese in città più di 500.000 persone. Torneranno così sulle strade un migliaio di cassonetti e si prepara il bando per gli ambulanti. In quella di Pordenone, oltre ai titoli già segnalati, spazio per la morte dell'imprenditore Lelio Palazzetti, fondatore dell'omonima azienda di stufe e caminetti. E poi funerali a Palse, con onori militari e maxi schermo per Monsignor Santa Rossa. E infine il libro di Sauro che racconta gli ultimi 30 anni di politica regionale. 8 e quasi 49 minuti, ancora spazio per un paio di appuntamenti sugli spettacoli di questa sera. La musica al Teatro Nuovo di Udine, la stagione propone il concerto del violinista Giuliano Carmignola e dell'ensemble Concerto Köln, programma tutto dedicato al repertorio barocco. Ultimo spettacolo della stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Comunale di Polcenigo. Stasera si esibirà Enrico Bertolino con il suo Instant Theater, show di musica, cronaca, satira e comicità che cambia ogni volta. Ad accompagnarlo i musicisti Roberto Antonio Di Bitonto e Tiziano Canna Saghedu. Inizio alle 21. Solo un accenno ai programmi regionali di oggi. Alla radio su queste frequenze alle 9.15 trasmetteremo la prima puntata di Stracapirsi, originale radiofonico di Luciano Santin, per la regia di Stefania De Maria e Riccardo Ciconetti. Recitano Ariella Reggio, Marzia Postogna e Valentino Pagliei. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone la quarta puntata di International Lessons for Young Musicians, un progetto ideato da Marco Maria Tosolini con la regia televisiva di Mario Mirasola. Nella lezione di oggi, intitolata Bagliori Rumori, quattro ospiti racconteranno la musica dall'espansione dell'orchestra da camera all'amplificazione del rock. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comara, collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossima edizione 12.15, ora linea a Vita nei Campi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.